pieno, è un bellissimo segnale dal produttore, stai scherzando, considerando che io non sono a Sassari, perché io non sono a Sassari, sono fuori Sassari, quindi no, più che bene, vai ti, la battaglia dei Brugnani. Mandami una foto di quel cane, lo faccio vedere l'aria, mio genere, loro sono amanti di questi cani. Come sono andata quando era qua con il cazzo con Nicolas? Come sono andata? Non sto battagliando, però sai cosa ho fatto ieri, anche oggi perché lo sento ogni tanto, mette la zampata al muro e alla porta, no? Però al muro mi ha già, ho già i segni del scavati dalle unghie, quindi ti sto dicendo che mi ha fatto due solchi praticamente, il terzo credo che sia dalla porta. Anche il mio ogni tanto quando esce fuori, per quando vuole rientrare, che io tengo la porta chiusa per i topolini, insomma per gli insetti eccetera, o chiudo ogni combatta lo vedro, oppure con la zampa graffia, qualche graffietto l'ha fatto, animali sono lì, piano piano, poi quando si abitua ai comandi, vedrai che non infatti più di che grossi. Il tuo Eugene, è obbediente? Sì, tutti e due obbedientissimi, quello su quello non posso avanzare. Veramente, sono io come le altre voci, loro si siedono, buono, non si muovono lì. Addirittura dico, non mangiate e non mangiano. Così vuole. Vabbè, ma io per dire la verità li volevo far addestrare da Mariolino, un amico. Però sono troppo incasinato col lavoro, non ho tempo, e Ballevare di sabato per giunta mi sa che è anche chiuso, quindi mi viene male, credimi, mi viene male portarlo. Il drogo argentino l'ho dovuto un attimino, perché un giorno gli ho messo una bistecca, e la stavo mettendo, mi si è girato. E allora lì ha avuto un incontro ravvicinato con Michael il Picco. E dal giorno, come lui dico, non mangia e lui non mangia, ne scende la baba ma non tocca niente. Aspetta che io gli dico mangia e poi mangia. Ah sì, bisogna, sì, perché prendono sopravvento questi cani. Ma infatti adesso questi cucciolo io ogni tanto gli do adesso un pezzettino di prosciutto, un pezzo di viuzza, giusto per dargli un premio. Ma quando sente quell'odore lì, anziché stare in confronto ad altri passi, è un po' più birichino, nel senso che fa sentire i denti, allora gli arriva un sinistro e si calma. Ma lei mi insegna a stare seduto, se no non mangia. I miei come mi vedono con la roba da mangiare in mano, si siedono da soli, mi seguono, mi stanno a un metro di distanza, si siedono tutti e due, fanno le ciotole separate naturalmente, perché il giorno che si azzuffano si fanno male tutti e due, hanno le ciotole separate, io le riempio le ciotole, le do da mangiare, quando lo dico mangiatelo o non mangiano. Per cosa, ma se lo voglio così, ti do vicino in mano, perché poi c'è mio figlio che molte volte dai glielo do io, però è un po' indeciso, no? Quindi magari glielo torno indietro, quando glielo torno indietro allora glielo riavvicino, allora quello cerca di prendere il volo, capito? E quello è sbagliato. Dimmi una cosa, allora sono maschio e femmina oppure maschio, femmina, com'è? Maschio e maschio, purtroppo, e sono un po' aggressivi, diciamo, ma non con me, anzi con me si girano quando facciamo finta di litigare con mia moglie, no? Io provo a alzare il braccio, mi si avventano tutti e due. Sì, io ho avuto il mare in mano al passo del tedesco, tutti e due maschi, ma purtroppo è così, uno deve dominare sull'altro, quindi ti capiterà più di una volta che si azzuffano anche fra di loro. Devi continuare? No, c'è il dogo ha già preso sopravvento, il dogo argentino. Vabbè, quello il dogo sardo c'ha un anno, quindi è cucciolo ancora, poi il dogo argentino gli ha già fatto capire come andare lui. Claudio, ti ho mandato una foto del logo sardo. Jack, non l'ho vista, ce l'ho. Stavo caricando il telefono, c'è il lato, ci ho dimenticato di caricarlo, cioè vado a guardare. Mandamela, Luigi, che non so. Non so com'è. Cosa fa adesso? E come faccio a mandartela? Se non ho il tuo numero di telefono. Su Messenger mi hai mandato la foto del camper. Ah già, è vero, aspetta la mano. Aspetta, faccio una pagina del tuo sito, voi consentite questa applicazione della foto modifica del dispositivo. Sì, o no, e ci siamo. Poi c'è scritto accesso l'EULA e il DPA. Metto accesso. Tu aspetta, non prende il telefono, che è rotto di balle, guarda. E poi sta scaricando, però guardiamo a vedere. Allora faccio il sito controllo, aspetta, non stanno apparendo la pagina una dietro l'altra, lo so dire. Com'era? Sino? No, io riesci, non ci vai in giro. E ti fai il tuo ID e poi sotto password. Ciao. Sì. Oh, dimmi. Che devo dire? No, hai un giro, ho detto. 5, 4, inviata, mi è uscito subito, inviata. 3, 3, 3. Bene, adesso io sono arrivo. La mia ancora non è arrivata, rientrare di 200 telefono. Ma perché non c'ho linea, ho rottura di balle. Un gabbo. Infatti come secondo nome è Cabuccione. No, poi Cabuccella, come ti chiama? Gino simile. Gino Cabuccella. Ma il fratello è sempre in compagnia portuale? Ma il fratello Carmine non è mai stato in compagnia portuale. Lui era agenzia marittima e sarde, l'agenzia Tirrenia, dai. Un'agenzia a parte. Ah, sì. All'Amar era. Amar si chiama quello, si chiamava Butto, c'è anche Michele Garao, c'era lì. No, quella è un'altra agenzia, non era Amar, era AMS, Carmine, l'agenzia marittima e sarde. Invece l'Amar è un'altra? Ma no, ma Michele dov'era? Alla Michele Garao, non so se è anche pensione, Michele era al corso lì. Forse era assieme a Carmine. Allora, Michele era agenzia. Michele è andato in pensione, sì. È andato in pensione un annetto. Grande persona Michele Zagal. E niente. Era agenzia. Ce ne erano quattro. Forse era Amar lui. Sì, Michele è iniziato con l'AMA, me lo ricordo perfettamente. L'ufficio era lì dove c'è la Medusa. Guarda Tino, guarda quello che ho mandato adesso. Ma io mi riesci a pigliare un io, grazie, porca miseria, per non uscire fuori. Ma questo è il tuo? No, anche quello è il mio chihuahua. È uno così ben attrezzato stesso. Rocco. Hai visto come si è messo il mio? Un pollo sembra, si è messo, si mettono così. Stagli sono tutti questi dati, Ha visto qual è il dogo sarbo? Sì. Ma è cucciolotto, già si vede. Un anno. Poi non fa, adesso è entrato nuovamente. Non fa più la porta, cazzo, che mi vuole. Ma è uscita mia moglie a stendere. Aspetta, ce lo sbatto fuori di nuovo. Lascia dentro, poverino. Sennò questo qua per mangiare troppo, poi. Entra in tre camere. Io già intanto ve lo faccio entrare in cucina, e adesso poi è entrato in salone. Anzi, lasciamo fuori che deve imparare a fare la guardia. Lo sai che è già attento. Basta che senta qualche rumore, che subito si mette in allarme. C'è un boccione che... E beh, claro, hai visto qual è? Ci ha avuto a caricarlo, sta girando, poi qua a terra. Mi arrangio un pochettino. Se mi dà le freccette blu. Ah, sì, questo è nero, sì. L'ho già visto, sì. Sì, è bello, un bel cane. Bello, sì, adesso l'ho visto. Questo è il logo sardo, che ancora la razza non è riconosciuta. Sanno che c'è, però la Federazione Italiana Canina, la FIC, non l'ha ancora riconosciuta. Stiamo facendo di tutto per riconoscerla come razza. Io la riconosco. Questo punto. bizzante, mentre il bizzante esci, poi non va a collare, quindi non posso neanche graffare, lo devo graffare per il collo. No, mettiglielo, abitalo già la vesce, io glielo messo a piccolo, mettiglielo a collare, qui si abitua, se no poi è un casino a metterlo, sarebbe grattendosi. Che non sia troppo aggressivo, se no ancora il cucciolo, è la pelle di piazza, le segna, le fa perdere il pelo. Sì, ma infatti glielo tutto per quello. Ma è già abituato a andare a guinzaglio, tutto quanto, è che quando sono a casa glielo tocco, perché sennò gli fa perdere il pelo, come sta dicendo Virginia. Poi ho comprato anche la pettorina. Solo che con la pettorina i comandi sono differenti, non lo si è già addestrato per la pettorina. È venuto l'altro giorno, un mese fa, il veterinario per fare tutti i vaccini al dogo sardo. E è andato a fare la puntura e gli ha piegato l'ago, si è spaventato e ha detto cosa c'è, una corazza e tuo corso, così un cinghiale. E invece sono andato a fargli la puntura per l'antismania, e questa qua gli ha fatto 4-5 buchi e non trovo quella vena. E auguri, Sono tutti così, quel cane, anche il mio è così. Io lui è sterilizzato con la puntura che dura 2 anni. E gliela fa sopra vicino al collo, le prende la pelle, le attira su e fa fatica a infilare l'ago, solo tutti i giochi cigani, buzzinosi. No, io invece vorrei, solo che costa un pacco di soldi, vorrei qualche cosa, qualche consiglio, anche se riuscisse ad o sterilizzare la femmina, oppure che, se c'è qualche cosa da spruzzargli, non so, per far sì che gli altri animali non sentano l'odore, ecco. No, sì, su quello non lo so, però ci sono le punture, penso anche per le femmine. Io a Filippo l'ho fatto sterilizzare perché stava sempre, si faceva le segozze, hai capito? E allora il veterinario mi ha detto che li si poteva fare, 200 euro pagato, che dura 2 anni però, 2 anni, capito? Penso che ci sia anche per le femmine. Non so, c'è un amico, Daniele, che è veterinario, abruzzese, non so se lo conoscete, però mi ha chiesto 300 euro per fargli l'operazione, sì, lo studio lì al Porto Torres, cioè credo che sia di un altro, però lui collabora. Sì, ne ho sentito parlare, no, io c'ho un fossi qua a Serra Secca stesso, è abbastanza vicino sempre a me. Da piccolino l'ha sempre seguito lui a Filippo, capito? Sempre seguito lui, gli ha fatto la puntura quest'estate che abbiamo fatto, che non si voglia di lì, ma certe pippe che si faceva anche 3, 4, 5 al giorno, che è una cosa allucinante, una volta anche il sangue ce l'aveva, il tumore bacio, io mi dice le cose, prima volta si dica, dopo la cavettera, io ho detto, mi fa una cosa, dottor, tagliagliela, no, mi ha detto, ma cosa tagliare, facciamo la puntura, almeno per 2 anni tranquillo, lui vede femmine, non si avvicina, non è fottuto di nulla, è diventato brosso. A me mi interessa per la femmina però, capito? Non so se ci sono le punture per la femmina. Beh, se ci sono per i maschi sicuramente ci sono anche per le femmine, per non fare l'operazione, ti fanno una puntura momentanea, però ti ripeto, dura 2 anni, 2 anni. L'effetto inizia dopo un mesetto, non prima, per entrare tutto in circolazione, nelle ovaie, nelle cose, capito? Al maschio gli si restringono i testicoli, sembra che non ne abbia, capito? E quando sta iniziando a fare effetto, tu inizi a avere i testicoli che iniziano ad allargarsi. Avevano detto che c'è uno spray, e comunque i giovani glielo spruzzi e gli altri fanno fatica a avvicinarsi, perché qua praticamente già per 2 volte consecutive, insomma, sono entrati degli altri cani e me l'hanno saltato, anche se sono usciti dei bei cuccioli, sono riuscito a darli, però è un impegno, poi capito, c'è sempre mezzo ai piedi, ne ha fatto 9, un'altra volta ne ha fatto 7. Ti ho inviato la foto del mio chihuahua qua. Ma come sta chihuahua, c'è buio, Guarda. lì era un momento casual. E lì era il suo momento. Non avevo visto ancora la mappa, che non vale sul telefono, ma l'avevo visto. Allora comunque tutto l'ha girato. Aspetta, la guardo. C'è un bello tanto qui, un bel microfono c'è. E allora, quel nuovo MC60. Bravissimo. Ma Giovannino Gabriello. Rocco. Anche Massimiliano c'era il... No, il Pincher c'è lui. Il Pincher c'è lui. K, ma in che momento ci vuoi accendere? Qui sente, qui sente, vuoi c'è accendere, va bene. Ma perché oggi partita c'è? Sì, questa sta finendo, questa è quella che è iniziata alle 6. Il vento c'è Fiorentina, poi c'è Atalanta-Cagliari stasera, poi tutte le altre. Inter, domani c'è Inter-Mina, Mina-Inter. Non ho messo uno, cazzo, non riesco a tirare l'ossia, vabbè non ha capito niente, però calpesti, come si chiama? Ma questo autovideo del Windows 10 si aggiorna continuamente o sempre quello che sta là? È lenta la mia. Beh signori, io vi saluto perché adesso mi lavo e devo cambiare, che devo uscire. Ciao ragazzi, a domani, ciao, buona notte a tutti quanti, ciao. Ciao Luigi, ciao, alle prossimine. Lascia l'audio, presenta. Ciao Gia, ciao. Ma io sono un po' qua al computer, faccio delle cose e poi anche io l'occetta e poi mi cacchio. E gli atti fai fai, tanto mi guardo questo finale di partita e poi già sono qua, comunque c'è problema. E anche io sono qua, non è che... Andà Bex, da. Gappa, gappa. Che pensa se questa è fibra mia, è una vergogna, infatti adesso mi devo staccare tutto, ho parlato l'altro giorno, avevo le foto, c'era un tipo che conosco, che mi ha detto, vedi questo Open Fiber, è un altro pianeta rispetto a quello, lui stava facendo tutti i problemi che gli avrei, perché volevo andare a Tibeto, lascia perdere, mettiti questo qua, Open Fiber di corso, delle poste, che costa un terzo di quello che pago io normalmente, vabbè che è presente, sto adesso qua, questa linea, più c'è il cellulare che è in 4K, poi c'è mia figlia che sta guardando cosa al computer, lo stesso su internet, c'è un sacco di roba collegata, sono le tue mani, dai, divertiti. Comunque mi sta spacciando il collo questo cazzo di monitor, è troppo in alto, devo fare in modo di metterlo, fissarlo in un altro modo, in modo che sia molto inclinato, perché se no non riesco a utilizzarlo. Ma ragionamento di che cosa, di Windows 10? Comunque il programma che mi hai messo tu è già attivo, quello che dicevi tu. Ma possibile che ci sia anche l'audio in questo punto? Cioè come fare allora a utilizzarlo? Più complicato del normale, no? Si può risolvere comunque. Ah, come l'ha fatta? Vabbè, ha vinto 1-0, già va bene. Ce l'ha fatta? Sì, ce l'ha fatta, ma gioca meglio un champion però, il champion è uno squadrone. Prima del girone non ne ha mai perso una, è già passata agli ottavi di diritto, quindi sta giocando molto meglio il champion, quindi secondo me sta puntando più alla champion che al campionato. Per oggi una partita molto difficile, Fiorentina è fortissima, ha vinto 1-0. Vabbè, adesso deve rimontare il campionato perché deve, non certo sta puntando a vincerlo, ma deve puntare al quarto posto, almeno terzo o quarto posto per rimanere in champion, se no le tocca l'Europa League. Cazzo, stanotte è bella, stanotte c'è Cagliari, Atalanta Cagliari, sarebbe. Sul salito a Biglia, povero Cagliari, se il B gioca con la Dorra, se gioca con Cagliari. Vabbè, io non è che non sono così appassionato, quindi ti dico che non le guardo, giusto quando c'è la Juve, ma giusto perché la vuoi guardare Gabriele, non è che sono così appassionato alle partite. No, io sono sportivo, guardo tutte, sono juventino, però forse sono uno dei pochi sportivo, non sono né anti-interista, né anti-milanista, non mi ha fottuto. Io guardo tutte, piace il calcio, capito? Quindi le guardo tutte. Adesso vediamo se il Cagliari riesce a fare un buon risultato, ma con l'Atalanta è una macchina da gol, ma giù male è acuto il Manchester. ha pareggiato Ronaldo al 92esimo, insomma stava vincendo 2-1, figurati col Manchester, per la squadra l'Atalanta. Vabbè, beh sì, dai, sono andato a salutarti, me ne vado un po' a vedermi un TG e poi ceno, tanto siamo soli, io e Anna, mi vado al lavoro, non rientravo neanche a cena, quindi ci mangiamo una cosetta e poi mi guardo un po' di TV. Ti saluto, grazie alle due chiacchiere, lascio tutto acceso comunque qua, nel caso entra qualcuno dopo, se c'è qualcuno mi faccio le chiacchiere. Saluti a casa a tutti, tutti, tutti e ci aggiorniamo, ok? Io sono sempre però in sempre cercando l'FMC60. Va bene. Dai, ci sentiamo qua, salutami Anna. Anche io sono intanto, me lo conosco il censito e sto guardando altre cose. Anda Bex, ciao. Ciao, ciao, ciao, ci sentiamo alle prossime, questo non è il 60, questo è la Donis. Questa è la Donis con 140, viaggia molto bene, ma come microfono non mi piace. Me l'hanno dato ad usarlo perché non lo stavano usando, però non mi piace esteticamente. Mi piace più il 60. Ma non niente a che invidiare, eh? No, assolutamente, già ho visto in cuffia, è tutto un bellissimo, bellissima radio, un microfono super professionale, perché la Donis fa dei bellissimi, però esteticamente non mi piace, capito? Sia flessibile così come l'MC80 85 non mi piace di 60, bello corposo. Adesso vediamo se lo trovo, questo ve lo restituisco, se no momentaneamente uso questo, se no ogni volta mi toccava cambiare microfono, capito, da una radio all'altra. Va bene, dai, ci aggiorniamo, ciao. Ciao, anche perché sono un po' stanco io adesso, mi non lo credo di avere. Oggi abbiamo fatto un po' di alberi di olivo, quindi ma ci mancano di muti. Le merenda sono. Mamma mia, ma che bravaglio, mamma mia. E poi per tutta la settimana a lavoro. La campagna è così, io fortunatamente quando è avanti ieri mi sono rasato tutta l'erba, ho fatto un po' di pulizia fuori, ma in campagna c'è sempre da fare. Adesso oggi non ho fatto nulla, intanto domani piove, c'è la biglia in Q. Ah, speriamo di no, Gabriele deve giocare domani. Vabbè, ci mandano pure acqua. Babu, ciao. No, piove, guardati, tu che c'hai internet. Piove, non piove forte, però piove. Sia domani, lunedì, per la settimana ha messo acqua. Inizia già da stanotte. Già da stanotte o domani mattina presto inizia, comunque piove domani, tranquillo che piove. Vediamo se la rinviano, ma non credo. Sono ciccia, vuol dire che si bagnerà e poi quando viene a casa doccia calda e a letto. va bene, dai. Ci sentiamo qua. Ciao. Ciao Ticcio, buona serata, buon tutto. E io, altrettanto a voi, ciao. No, perché dopo li prendiamo di nuovo la parte, bisogna fare rendere di là. Poi per questo cazzo di mouse bisogna parlare per la fine, ma la mia sorella me ne ha uno che è più grande del gruppo del pollice mio, ma tu si vedi, ma certo, ma cazzo non l'avevi data, però almeno funziona. Certo, ma la parola che ne abbia qualcuno in officina pure, che accorta anche in avviso di computer e quanti ne ha usato. Adesso poi con i tablet usi direttamente dal tablet. E anche tu la Juve 92 sono assegnato quadrato. Vediamolo pure, certo ci sta bisticciando con quest'anno, però tanti mezz'ora e poi certo alla fine basta facendo giù con la tastiera ascoltandoci, invece col mouse un secondo sembrerebbe meglio. Io buonasera, mi sta dicendo preparazione di Windows, non spegne il computer, avanti da mezz'ora e io. E dopo quando diamo la parte ci portiamo su, si può portare un canale no, diciamo strano, diciamo. E vai, possiamo dire queste cose di internet, di barone. Comunque Gianfra, rilogando, quella specie di chiavetta per il mouse ottico la tolgo via, la elimino, lo spazio di dietro, l'inserimento dove inserisci. No, c'ho la pennina io, con la pennina, però se l'ho messa adesso frontalmente, ho messo il mouse con la pennina frontale, però la pennina gliela piazzo dietro, no? Così non è messa in cima. No, non dico adesso, quando è tutto spento, tutto a posto. La chiavetta la metto dietro, la chiavetta wifi. La wifi, guarda, se sarete esagerazione sarà di altezza a 60 cm e di distanza a 30 cm. E io. no, siccome questo ascolto femmina con l'antenna è un po' ingombrante, non vorrei toccandola, ascoltandomi con le ginocchia, qualcosa lo faccio danno, allora gliela metto dietro e non me la blocca. No, scusa, non ho capito, se vuoi un altro canale, scusa, allora possiamo anche dire una cosa, 993, in base a questo 993, vabbè, comunque è confermato 993, dai.